nel patimento e nella grazia c'è oro. Ma c'è più oro nella grazia o nel patimento? Dillo, aiutami, dillo, augellino modesto. Che grazia sia patimento, forse, può darsi. Allora anche patimento è grazia. Grazia e pena stanno congiunte. Paiate bambine che giocano su pavimenti di pena e grazia. Irrevocabili bambine. A tenerne il cavo, saperne il nocciolo. Stupefatte bambine di pena e grazia. E che grazia e pena siano animosamente infanti, lo dice dolorando la pena, lo dice gratuitamente la grazia della pena, quella della beltà, la grazia del giardino proibito delle delizie e il patimento delle grazie, le stordite pene che si provano quando si è in pena e in grazia o quando puerili stonati giocattoli si chiama grazia, un afoso penare. E pena vien detto tutto quanto in realtà ha talmente sapore di grazia da smarrire e perdere.